Metà di noi non aspettava altro che la gente lo riconoscesse per strada. Ma la vita è strana, l'altra metà, me compreso, continua a preferire chi non se lo caga. La fama non l'ha fatto mai per quelli come noi, già cresciuti senza peli sulla lingua tra finti miti ed eroi. La musica è stata la sola ed unica via, lo riconosci perché ascolti e ti sale la nostalgia. Troppo troppo i nuovi gatti che mi tengono in competizione, non mi sono mai sentito superiore, that's amore. Non presto molta attenzione ai commenti, faccio la mia visualizzazione, poi cambio canale, sì signore. Figli dei 90 o meglio loro fratelli, la tensione tanta sempre fino sopra i capelli, con la promessa di stare più rilassati e di permettervi di crescere cullati tipo mami e papi. Ma forse non ci avevate capiti, ci avete dato dei profeti, dei venduti o peggio dei falliti. Scappo fosse come un cazzo di becchino e come ai tempi delle posse non fai un cazzo quando rimo. Yeah. Quando rimo, quando rimo, quando rimo, quando rimo, quando rimo, quando rimo, quando rimo. Quando rimo? Quando rimo? Vi sono piaciuti? A noi sì, a noi molto. Questo era il nostro primo, il primo pezzo che mandiamo in questa puntata. Abbiamo Fritz da Cat, feat. Bassi Maestro. Il pezzo era Come ai tempi delle poste, come ho diverse volte detto. Aspetta, il pezzo si chiamava Come ai tempi delle poste? Mi sembra proprio come... Com'è che si chiamava? Come ai tempi delle cose? Come hai fatto ai tempi delle poste? L'album è Fritz del 2013, che è fra l'altro l'ultimo album solista di Fritz da Cat dopo lunghi anni di attesa, che è stato pubblicato proprio il 1 ottobre 2013 e vanta, diciamo, la partecipazione di una grandissima parte dell'attuale scena rap hip hop italiana. Dell'attuale di... Sì, attuale di 6 anni fa. Sì, vabbè, che comunque è tutta gente che continua, bene o male, almeno negli ultimi anni. Tipo no, Fibra, lo stesso Bassi, Noitz, Gemon, Turi e tanti altri. Era un bel disco, sì. Speriamo che ne farà uscire un altro senza far passare altri 10 anni. E quindi adesso passiamo a Bassi Maestro, nel senso che prendiamo Bassi Maestro e quale altro artista abbiamo scelto per un lavoro allora, con Bassi? Praticamente adesso Bassi Maestro lavorerà con Mistaman in un pezzo che si chiama Gli Ultimi Testimoni, uscito nel 2004 in Seven The Street Prequel. Quindi abbiamo preso il pezzo di Bassi. Bassi era il futurer e adesso avrà un futuring. Penso che i termini siano giusti, non lo so, non mi è molto chiaro il nome. Un po' come il feudalesimo, che c'era tutte quelle cose lì. Feudatario, sì, esatto, che io sono mi feudino. Devo fare tutti gli schemi, la stessa cosa. Ah, questo è quello che ne... questo è quello, questo è quello che prende e questo è quello che dà, ecco. Ok, allora adesso vi lasciamo a Bassi e Mista, un bel pezzo soprattutto. Io ho sentito poche volte questo pezzo, godetevelo. Mandateci un messaggio se vi piace. Noi siamo gli ultimi testimoni in questi tempi stupidi. Yow. E se ne dubiti e ci vuoi fuori, forse meglio se dubiti di te. Noi siamo gli ultimi testimoni in questi tempi stupidi. Yow. E se ne dubiti e ci vuoi fuori, forse meglio se dubiti di te. Visti i tempi la gente la senti, si prende bene con le cazzate della telebomb. Conviene non smollare il colpo, son troppo convinto di quello che spingo, l'istinto di un animale già estinto. Sto per uscire dal recinto, rau rau, ti faccio così male che il tuo dentista mi manda i cesti per Natale. Amo tracciare trame e primeggiare gare, tu puoi sfidare Ale, non puoi arginare il mare. Per chi rimane male, rimango tale quale, l'originale sale. Chi non sa fare amen, vuoi seminare pare, non mi piantare grane, sono animale a fame, ti dico pane al pane, ti dico vino al vino, da qui continuo fino a quando arrivo primo e finché son vivo rimo. Noi siamo gli ultimi testimoni in questi tempi stupidi, yo. E se ne dubiti e ci vuoi fuori, forse meglio se dubiti di te. Noi siamo gli ultimi testimoni in questi tempi stupidi, yo. E se ne dubiti e ci vuoi fuori, forse meglio se dubiti di te. Io non ho bisogno di un hobby, questo è il mio mondo, vivo in una lobby. Stoppi, hai fatto un sogno e scoppi. Cosa succede a me che ne ho fatti troppi? Sgoppi, ma il tuo lavoro ti umilia. Scopi, solo per metter su famiglia. Stoppi, perché la strofa non sta in griglia. Fottiti, la tua emittente non si piglia. Testimone come un padre con sua figlia. Merda che va a nozze, percorre mille miglia. Di notte ritorna che ha visto un nuovo mondo. Non puoi mica divorziare in un secondo. La musica che sento è come un jab al momento. È come stare sopra un jet che va lento. È un jack in una patch. È qualcosa che mi invento. È rap. L'hip hop è un movimento sociale. No, l'hip hop fa spavento. È qualcosa di più grande. Di un intrattenimento. Di un muro dipinto. Di un tipo sul pavimento. L'hip hop è cinema. Fanculo via col vento. B. Noi siamo gli ultimi testimoni in questi tempi stupidi. Yo. E se ne dubiti e ci vuoi fuori, forse è meglio se dubiti di te. Noi siamo gli ultimi testimoni in questi tempi stupidi. Yo. E se ne dubiti e ci vuoi fuori, forse è meglio se dubiti di te. Yeah. Mista Manecattini, lo sapete, i testimoni dello sfascio, dello schifo, gli ultimi testimoni, sì, lo sai, è tutto quanto live, live, live. Rappresentiamo l'hardcore, rap, rugged and roll. Sempre bello sentire le grandi collaborazioni come possono essere quella fra due lirici di tale livello come sono Bassi Maestro e Mista, ma due anche grandi cultori. Sì, cultori della parola, che veramente hanno veramente un grande talento metrico e un grande talento compositivo dal punto di vista dei testi, che sono sempre molto sorprendenti loro. Sì, infatti sì, poi c'è anche da dire che non hanno neanche fatto molte collaborazioni negli anni, questa è una delle poche fra questi due. Questo pezzo è uscito nel 2004, presenta in questo street disco, è un disco street di Bassi, perché in realtà Seven praticamente era, cioè, come se fosse una raccolta di inediti uscita prima del disco Seven, infatti questo era lo street prequel. Un bel disco, molto, molto non a livello magari di Classe 73 che è uscito l'anno prima, secondo me, però vabbè, dai, poi sono gusti, capito? Cioè, molto molto tranquillo. Ecco, adesso vi dimostriamo che oggi diremo molto poco. Questo è tutto. Sì, allora, anche perché sono tutti artisti che molto probabilmente conoscete. Sì, infatti sì. Non è un caso se abbiamo messo proprio un feat di Mistaman. Non so, non tutti sanno che, ma probabilmente molti sanno che Mistaman ha deciso di rimettersi al lavoro ultimamente. Finalmente. E infatti proprio della settimana scorsa, di venerdì scorso, il suo ultimo EP, che è uscito proprio il 12 aprile, quindi parliamo di cose fresche fresche appena uscite, fresh fresh. Ed è proprio da questo fresh disco qui che abbiamo scelto l'ultima traccia. È uscito un disco di Mistaman che fa non lo sentiamo E quindi lo dobbiamo sentire per forza, anche perché ve lo consiglio, ci sono dei bei pezzi, è un Mistaman diverso, un Mistaman differente dal Mistaman che conoscevamo tutti prima. Ma a comunque me non è piaciuto tutto. Ma a me invece sì, quindi abbiamo opinioni discordanti a riguardo. Il pezzo che abbiamo scelto è Mai, e i featuring che fanno parte di questo brano sono quelli di Johnny Marsiglia e Frank Siciliano. Prego, va bene. Il titolo è Mai, l'ho già detto, no? Il disco è L'universo non esiste. L'universo non esiste. Vado? Prego, vado. Prego. Vadi. Yeah, mi son sempre accontentato di quello che ho, lo sai. Ma di quel che so però io non mi sono accontentato. Fin dai primi passi io ho studiato come un samurai l'arte di arrangiarsi, arrangiatori non ne ho avuti. Se segui gli altri non ti sbagli, già sai dove vai. Ma se li mandi avanti prima non ci arrivi. Quanti errori fatti, quanti ancora ne farai. Passi avanti e passi indietro che non rifarrai. La vita è un esame, puoi copiare, ma anche se ti fai dare la risposta, la domanda non è uguale. Grazie dei consigli, fa così o ti pentirai. Ma se mi somigli apposta, tu i consigli non li segui. La tua voce è un'arma, ti può mettere nei guai. Ti intimeranno di abbassarla, però bada tu non farlo. Sempre pronto a mordere anche quando non abbai. Che è più forte molte volte, non si scopre non scordarlo. Tieni a mente le mete che hai, l'orizzonte. Non smetter di fissarlo mai. Ma non scordare il cammino e la gente quando lo raggiungerai. Non farlo mai, mai, mai, mai, mai. Non farlo mai, mai, mai, mai, mai. Yeah, yeah, yeah. Dimmi che ne sai di me, dimmi che ne sai. Penso solo ad eleparmi, vuoi sfidarmi? È troppo tardi ormai. Troppe domande stupide, risposte ovvie. Ebbene sì, a volte è duro, lo so, ma comunque arrendersi Oggi è festa, versa dell'ennesi, ho la testa che sta per spegnersi. Brindisi per non perdersi mai, mai. Affanculo chi vuole prendersi il tuo tempo e la tua energia. Ti auguro di non crederti mai, mai. È lo showtime della vita che ti fa ricredere se dici no mai. Cresciuti con poco, sì, pochi esempi e poche regole, tipo non farti vedere debole. Mai fidarsi, mai darsi per vinti, mai tradire, mai, mai, mai dire per sempre, mai dire mai, mai, mai. Se mi conosci lo sai, mi chiami my man, cosa tuo man? No mai. Tieni a mente le mete che hai, l'orizzonte, non smetter di fissarlo mai. Ma non scordare il cammino e la gente, quando lo raggiungerai non farlo mai, mai, mai, mai, mai. Non farlo mai, mai, mai, mai, mai, mai. Mai. Cioè, il pezzo è finito, sta soltanto andando il beat. Mista Mangiani Marsiglio e Frank Siciliano, in questo bellissimo pezzo del, dal titolo Mai, estratto da, dal scusa, vi faccio prendere EP, praticamente, non so se si possa chiamare del tutto album, L'universo non esiste, dello stesso 2019, che è l'anno corrente scorsa. Esatto, della settimana scorsa. Il suo nuovo progetto discografico, interamente prodotto da Fid Mella, fra l'altro, bravo, che ha fatto anche delle belle produzioni sempre, in questo disco. No. Mistaman, ovviamente, che si è sempre distinto per la sua ricerca di nuove formule stilistiche. E, formule matematiche, addirittura, io direi così. Perché nell'ultimo disco c'era... No, realtà aumentata, era l'ultimo disco. Realtà aumentata, in un altro disco. C'era un pezzo che si chiamava tipo X alla seconda uguale MC. Era tutta una formula matematica il titolo, era molto strano. E dopo questo settimo album di Mistaman, quale sarà il feat che abbiamo scelto per proseguire questo nostro magico viaggio fra persone? A, Gianni Marsiglia, B, Frank Siciliano, votate. Ed è proprio B, abbiamo scelto. Almeno fai scorre un attimo in secondo, passa il tempo. Scusa, scusa. Vabbè, dai, ormai l'hai detto, dai, dillo. Sì, sì, sì, è proprio B, è proprio Frank Siciliano. Abbiamo scelto un disco che, fra l'altro, vi abbiamo già fatto sentire nella puntata sulla notte. Però è un bel disco che ha tante tracce che meritano di essere fatte sentire, e soprattutto un bel feat, soprattutto quello che stiamo per passare è un bellissimo pezzo, quindi non ci biasimerete per la nostra scelta, perché soprattutto apprezzerete. Non è Notte Blu. E soprattutto non è ancora Notte Blu, deve ancora arrivare quel pezzo, aspettatelo. Tutte le puntate ve le dovete sentire tutte soltanto per sentire quando è che metteremo Notte Blu. Allora... I soliti tempi morti col mixer. È così bello dirlo. E qual è il featuring che abbiamo scelto per, insieme a Frank Siciliano, Mars? G. G. Gaon Science nel posto. Science G. Questa è L'ultima notte assieme di Frank Siciliano featuring Gaon. Bella, cioè, io metto in play. Continuo a parlare mentre parte il beat. Per gustarselo meglio. Che bel pezzo. Sì. Joe Joe Beat. Ciao. Vabbè, metto in muto, ciao. I'm living in struggle, baby. Nella sabbia, prezza dal mare. Vuoi che non lo sappia, stai per salpare. Sguardo l'orizzonte, pensieri di sale. Un bacio sulla fronte, un no per perdonare. Tieni stretto il passato, i luoghi dove sei stato. L'incontro casuale, l'incontro che ti ha cambiato. Il posto dove sei nato. Ehi, sai quando correre, quando prendere fiato e lasciarmi senza. Dimmi, sarà una lunga assenza. Lo so, saperlo non fa differenza. Rompi il vetro d'emergenza. Quando partire è un'urgenza. Sai, capisco bene non pensarci, mo. Nella testa ho mille scene, ripensarci, wow. Ok, va bene, guardami negli occhi e tira sul bicchiere. Brindo l'ultima notte assieme. Ora sciogliti, dovunque sarai, fino a che sei qui. Ricorda l'ultima notte assieme. Su vai, ora sciogliti, dovunque sarai, fino a che sei qui. Ricorda l'ultima notte assieme. La mente gira vuota e non conosce riposo. Fermala un minuto e cerca tu il contatto, anche se io non oso. Lo so che se apri tu il fuoco, in camera il silenzio scarrella e spara piombo in esploso. Pari di velluto, sei senza colpi nel tamburo, ma il tuo corpo è acciaio e tu sei fredda più del buio, non concedi appelli. Domani è come una sentenza ed io sarò ai cancelli, il primo ai blocchi di partenza. Ma aspetta, pensarci adesso che equilibrio sposta, a cosa serve, a chi dei due importa. In pace comprendiamo il senso della lotta, quasi tocchiamo l'energia prodotta. Senti nell'aria l'elettricità e questa calma che ballare più lenti ci dà. Prendimi ed andiamo sui tetti di 20 città. Stanotte saremo in balia degli eventi, si sa e si su va. Su vai, ora sciogliti, dovunque sarai, fino a che sei qui. Ricorda l'ultima notte assieme. Ricorda l'ultima notte assieme, dovunque sarai. Ricorda l'ultima notte assieme. Bentornati su Radio Wombat e ben rimasti soprattutto su Radio Wombat. Questi qui erano Frank Siciliano feat. Gammon Science. Il pezzo era L'ultima notte assieme, estratto dall'album Luna del 2015. E basta. Questo è quanto. Ciao, voi. Abbiamo già detto di Luna, abbiamo già parlato di Frank. Andiamo poi avanti. Di Frank ne abbiamo parlato lungamente anche nelle scorse puntate. Sì, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo adesso avanti. Tocca a Gammon. Questo è quello che aspettava Mars dall'inizio. Sembra tipo una groupie, capito? Assomiglia molto a una groupie in questo momento. Adesso tocca a Gammon Science, perché mettiamo un pezzo di quando si faceva ancora chiamare Science, con la scienza del suo nome. Adesso mettiamo un bel pezzo. E questo l'abbiamo fatto fino ad ora, non diteci di no. Adesso mettiamo un bel pezzo. Allora. Siamo nel 2007. Adesso mettiamo Qualcosa cambierà parte 3. Uscito nel mixtape Qualcosa cambierà mixtape. Uscito nel 2007, poco prima della rivincita dei buoni. E adesso basta, faccio sentire il pezzo, poi diciamo qualche altra cosina. Anche perché di Gammon abbiamo parlato molto poco, esatto. E potrebbe essere una buona occasione per fare due chiacchiere riguardo questo artista che comunque ha il suo peso. Sì, ma lo faremo anche in futuro. Ma lo faremo di nuovo e lo rifaremo. E avete tutto il tempo per sentirvi un po' di Gammon. E basta. Metto in play. Oggi parliamo poco. Oggi solo musica. Non c'è neanche quella, sapete, quella connessione che ci guardiamo, che adesso già credo che dobbiamo mettere in play senza di. E invece oggi proprio no. Cioè, no, oggi vogliamo usare le orecchie e non la bocca. Quindi dovrei parlare con le orecchie. Adesso mi stai dicendo che dovrei parlare con le orecchie. Ok, vabbè, mettevi in play. Dai, a tra poco. A tra poco. DJ Fender. Si muove quando qualcosa cambia, a mio avviso smuovi il sentimento dalla rabbia, ogni granello dalla sabbia. Quando si sfiorano due labbra, si reprimono rancori in una gabbia, lo capisci anche dall'abbia. Lei che è più importante di una bocca che ti parla, ed il concetto è più realistico del mistico che è tua fantasilandia. Ma è il rispetto verso ciò che ruota intorno a noi che ancora aspetto, perché la novità dà nobiltà ad ogni persona che l'abbraccia. Tutto va finché una buona nuova non la schiaccia, come anche Chiave Gammon per un futuro dove il cambiamento sia anche un po' più estremo. È certo che io tremo se vedo un manifesto e un messaggio disonesto, se poi non precede un gesto. Tocca fare presto, sia qua che in città, ogni realtà lo so, qua giù qualcosa cambierà. va. Ancora un altro giorno finisce e rimango qua a scrivere sapendo che qualcosa cambierà. Il cielo è il limite per chi non lo supererà. Per me qualcosa cambia, cambierà. Ancora un altro giorno finisce e rimango qua a scrivere sapendo che qualcosa cambierà. Il cielo è il limite per chi non lo supererà. Per me qualcosa cambierà. È tutto nello schema delle cose da cui provi a fuoriuscire. Devi smettere di dire che tutto è a posto, perché non è. E a forza di ripeterlo qualcuno ti ha creduto ed ha iniziato a ripeterlo insieme a te. Tecniche di ipnosi, attrezzi, stampe e TV per fare il cervello a pezzi. Metterlo nel freezer in numero 3 sacchetti, mentre puntano al torace per sfondarlo con un tackle scivolato coi tacchetti. Qui per sovvertire l'ordine incontrovertibile, per sfondare il mio disordine impossibile. Scrivo perché non ho alternative, lo scrivo per fare l'alternativo che scrive. Risucchiato dal sistema e tra le sue spire, e nel sistema per cambiarlo ed affrontare le paure collettive. Le parole come tutti in un fucile, da sparare perché viaggi da secondo direttive. Arrivino a coprire. Riprenderemo ciò che ci hanno tolto, tutto tornerà ad essere di nuovo nostro. Io mi sto allenando aspettando quel giorno, e quando arriverà mi troverà pronto. Ci riprenderemo ciò che ci hanno tolto, tutto tornerà ad essere di nuovo nostro. Io mi sto allenando aspettando quel giorno, e quando arriverà, quando arriverà, regnerà la calma e sarà l'alba di un giorno migliore. I miei occhi pronti per fissare il sole che già gravitava attorno a questa strada. Ma da prima della rivoluzione copernicana, assistere a talenti rapiti dal commerciale mi fa male, come vedere piangere mia madre. Troveranno porte chiuse se vorranno tornare. Un boomerang ritorna solo se lo sai lanciare. Non credo alla gente, figurati alle leggende. Ma le divise bruceranno tra le fiamme di Grendel. Guadagneranno soltanto i capaci. I miei gabbiani sbraneranno i tuoi rapaci, formattando le tue stragi. Placherò la sete di sapere di una vita. La vista mi sarà restituita, perché mi accecai con due puntine nel giorno in cui vidi che le pupille sembravano due vinili. Ci riprenderemo ciò che ci hanno tolto, tutto tornerà ad essere di nuovo nostro. Io mi sto allenando aspettando quel giorno, e quando arriverà mi troverà pronto. Ci riprenderemo ciò che ci hanno tolto, tutto tornerà ad essere di nuovo nostro. Io mi sto allenando aspettando quel giorno, e quando arriverà, quando arriverà. Va, ancora un altro giorno finisce e rimango qua a scrivere sapendo che qualcosa cambierà. Il cielo è il limite per chi non lo supererà. Per me qualcosa cambia, cambierà. Ancora un altro giorno finisce e rimango qua a scrivere sapendo che qualcosa cambierà. Il cielo è il limite per chi non lo supererà. Per me qualcosa cambierà. E come avete sentito, tre erano le voci che partecipavano a questo brano. Ma che bel pezzo è! È un bel pezzo, è un bel pezzo, ed è stato creato da, non solo da, da Game on Science, di cui abbiamo detto prima, ma abbiamo anche la partecipazione di Chiave e Franco Negré. Yeah. Gran trio che poi si è visto in tantissimi featuring, oltretutto anche nelle collaborazioni della Blue Nox, Unlimited Struggle, Unlimited Blue Struggle, un sacco di robe insieme, Unlimited Struggle e Blue Nox, prima che la Blue Nox cessasse di esistere. Spero che nessuno senta questa puntata. Questo disco, come dicevo prima, è uscito, ha anticipato l'uscita della rivincita dei buoni, infatti sono usciti nello stesso anno, e oltretutto aveva 11 tracce inedite, le altre erano tutte edite, pezzi che erano già usciti o che poi sono usciti in seguito nel disco. Già in questo mixtape aveva collaborazioni importanti, fra cui Chiave, Franco Negré, c'era un beat di Marco Polo già in questo, cioè, mixtape. E parliamo di cose piccole, di cose spicciole veramente. Mixtape mistato da DJ Fester Tarantino, di gente di Borgata. Era un bel disco, un bel disco. Poi ne parleremo approfonditamente nella prossima, non nella prossima puntata, nella prossima, nel futuro più prossimo, sì, quando riparleremo di Gaemon, molto semplicemente. Molto presto, insomma. E adesso, come adesso, giochetto dei featuring, il giochetto di featuring, chi abbiamo scelto fra Chiave e Franco Negré? Beh, Negré già l'avevamo sentito comunque, io non mi ricordo quale puntata, ma l'avevamo già sentita. Puntata dei dischi del 2018. Già, puntata dischi 2018, album di Franco Negré, già l'avevamo messo, e quindi abbiamo scelto di proseguire sulla linea Chiave. Anche perché Chiave ancora non, anche perché Chiave non l'avevamo, non ve l'avevamo mai fatto sentire noi di nostre mani, e quindi abbiamo deciso che era il caso di approfondire un po' questo personaggio, anche lui di una certa rilevanza, di una certa bravura, io almeno di opinione personale, poi non sono qui a a dare giudizi. Ma non abbiamo messo i classici pezzi di Chiave, non abbiamo messo il featuring con Gemo, non abbiamo messo i suoi pezzi solisti, non abbiamo messo le sue collaborazioni con Magro Marco, bensì abbiamo preso un pezzo. Abbiamo preso un pezzo del 2011 da Sette Respiri. Sì, il primo disco solista di Chiave prima del suo, dopo il suo EP. Dove abbiamo DJ Jumbo, ma il featuring è quello di Clementino, un altro personaggio che anche non avevo mai messo. Quindi tutti nuovi, questo Chiave e Clementino, il pezzo si chiama Non Manca Niente, e tutto vostro, sentitevi questa roba nuova. E dopo capirete perché, abbiamo scelto proprio questo. Quindi buon ascolto, buon ascolto. Ehi, mi metto in moto come il chef. Ormai c'è un separè fra me e la musica da club. Tu succhi, punti, è un'altra puntata in cui perdi. L'ennesima puntata in cui muori come Kenny. Mentre cercavate una major, mi sono dato allo studio e mi sono evoluto, passando da junior a senior. Raudisco il tuo disco e capisco, consigligno per fa crucifisso. A furia di tagliare coca, a furia di tagliare roba, non siete più tagliati per sta roba. Vi taglio fuori, no futuro se lo fai per gioco. Fra le mode va di moda che una moda dura poco, e ne godrete i resti, i teschi. Sta storia sta per esplodere come le guance di Gillespie. E se vivo per starte, perché voglio morire col sorriso in faccia come Charlie Parker. Fratemo Mirko Chiave, Calabria, Cosenza, Clementino Iena, Napoli. Chissà se un giorno ti accorgi che qua giù a noi non manca niente. Chissà se un giorno ti accorgi che qua giù noi stiamo bene così. Non manca niente qua giù, qua giù. Non manca niente qua giù. Non manca niente qua giù, qua giù. Noi stiamo bene così. Preferisco l'autoproduzione all'etichetta. Agisco con una convinzione, essere schiet. Amisco corre prestazioni in dei concert. Subisco se fumo con portone o chiamano scanchette. Chi se fa troppi pugnetti in capo l'ammonisca. Quando parla retta mi è una scusa. Botta tu disca, risce che tu capisci disc. Tu si fa verso stateggiamento, non se concepisci. In dei club fanno i chic, stanno chi ne fan club. Terrapigli quando peghi in dei video, parra catene nei tic, parra catene nei catena. Faccio parte degli intagliati in Italia, ma saccio buono mestiere. E vi racchista, se fanno una canna con me rimanano. Caca fa buccata, poriscono, che stanno tutto drogato. Cacano cazzo dialetto, mi tuo fa l'americano, ma si nati in Italia. Chissà se un giorno ti accorgi che qua giù a noi non manca niente. Chissà se un giorno ti accorgi che qua giù noi stiamo bene così. Non manca niente qua giù, qua giù. Non manca niente qua giù. Non manca niente qua giù, qua giù. Noi siamo bene. La gente dice gli chi te, se c'è Chiave MC da cos'è. Qua giù confondono il kung fu col karate. Guaiù, ma le story su break come li detto. In giro a suonare non so cos'è una tournée. Ma traveling man come Mos Def. Music is for life, like te. Quando prendo il mix dentro e dentro in testa, portami l'MC, scanni, faccio una resta. Ti dai al commerciale, mi chiami fratello. Stai offendendo mia madre, attento. Divento più cattivo, tu sii realista. Buono e sinonimi fissa. Non fossi questo mio stile, ormai ci ho messo il bullock. Dal meridione ribalto sta nazione come il 9 luglio 06. In proclame che i funky, se perché ne lavori a un beta lo risvolta. DJ Jumbo. Per DJ Jumbo che fa muovere il collo non avete come non ci fosse un domani. Di quanto mi mancano i pezzi con gli scratch in Italia, ne sì, stanno, si stanno estinguendo. Invece c'è ancora tanto da dire su questo argomento, secondo me. Allora adesso, prima di annunciare il prossimo pezzo che sicuramente vi farà saltare dalla sedia, passiamo a un po' di attività pubblicitarie. Allora, quindi prima di tutto sempre il solito sito wombat.noblogs.org. Se ci state ascoltando da lì, bene, se no molto male. Cioè, l'importante è che ci stiate ascoltando, quindi brava, brava, brava, molto brava lei, molto brava. Ho del talento. Sì. Poi abbiamo la classica mail che è posta wombat@insiberia.net, dove mandateci ancora tanti cuoricini. Non ho ricevuto né cuoricini né auguri né auguri di compleanno, né siete bravi né fate schifo, e neanche i biglietti per l'Islanda che ci avevate promesso. Eppure sappiamo che ci ascoltate, sappiamo dove sappiamo arrivate. Tutto noi, sappiamo dove aspettiamo arrivate. Soltanto vostre comunicazioni. E questo non era una registrazione, era proprio la sua risata. Provaci a fare una risata cattiva. Io? Sì. Oh, no, questa è una risata stupida. Sono stupida. Cos'era? Infatti anche la mia in generale non è che sia proprio una risata intelligente. Aspetta, aspetta, manca un'altra notizia. Mm-hmm. AM, frequenze 1359. Sì. Potete anche scriverci sulla pagina Facebook Sessioni Notturne, se non ci volete scrivere sulla mail list. Sì, infatti, sì, sulla cioè, mail list, sulla cioè, mail. Sappiamo che lo siamo poco la pagina Facebook, però cioè, se ce la fate usare un po' di più anche voi, male non sì, è. Esatto, esatto, cominceremo a bombardarvi di notizie, pezzi e cose, tanto ne abbiamo un sacco da dirvi. Ok. Adesso annunciamo il prossimo pezzo. Aspetta, aspetta, aspetta. Prima di annunciare il prossimo pezzo, vi ricordate che cosa vi abbiamo fatto sentire finora? Era Non manca niente di Chiave Fit Clementino. Ah, è vero, non abbiamo detto nulla. Non abbiamo detto proprio nulla su questo pezzo. Vai. Invece possiamo informare un po' i nostri ascoltatori su che cosa gli abbiamo fatto sentire fino ad adesso. Vai. Sette Respiri, che è l'album da cui è stata scelta la traccia che abbiamo passato, è l'album del rapper cosentino Chiave, che era l'ex membro della crew Migliori Colori, di cui già abbiamo accennato in passato. Sì. E questo stesso album ha segnato il vero debutto dell'artista nella fama di massa. Ah, il disco è stato preceduto da Digli di Noi. Comincio ad avere dei mancamenti di testa pure io. Contenente il singolo Sette Respiri, sì. Diciamo che possiamo era chiudere. Era uscito anche un altro EP prima che si chiamava Dietro le cinque tracce, oltretutto. O dopo? No, è uscito dopo. No, prima, non mi ricordo. E adesso, perché abbiamo scelto Clementino? Qual è il motivo reale? Perché abbiamo detto, sì, possiamo fare un giro di featuring, molto bello, una puntata molto divertente, però non possiamo fare un'altra puntata solo sull'hip hop italiano. Esatto, esatto. Quindi abbiamo detto, mettiamo un po' di hip hop italiano, poi troviamo un pezzo con un featuring internazionale e passiamo dall'altra sponda. E passiamo all'altra sponda. E avevamo diverse opzioni in realtà, però dovevamo seguire una linea per arrivare poi a quest'artista. Tipo c'era un pezzo di Chief e Soci, con Afurea. Beh, ma comunque ci passeremo. Però come ci arrivava Chief, è un percorso molto diverso, credo. E quindi adesso annuncialo tu. Qual è il super featuring che abbiamo trovato di Clementino? Qual è il super rapper, il super enorme rapper che abbiamo deciso di mandarvi oggi? Il Bill. Il rapper. Il rapper, il Bill. Fit Clementino, abbiamo Hannibal Rapper, dall'album Iena, uscito nel 2011. E mi fa male un occhio. Aia. Mondo, fa male. Però non, abbiamo detto che parliamo con le orecchie e non con gli occhi, quindi direi che non influisce comunque sulla buona riuscita di questa. Eccolo qua. Signore e signori, godetevi Il Bill Clementino. Hannibal Rapper, Clementino Fit Il Bill. Vabbè, io non ho detto Hannibal Rapper, avevo già detto Clementino, Il Bill. Insomma, le notizie sono tutte, sono sparse, ma sono esaustive. Vabbè, andiamo? Andiamo? Aprite andiamo. Le orecchie. Andiamo? Vado. Il Bill Clementino Production. Amos. Napoli, done. Bella frate, amore. Video Mind, Believe Records. Vuoi sapere com'è la politica in Italia? Cussio! Qui c'è lo Stato in mano a anime infette, lette da cani manette, da anni di sette, sataniche fette di crani nelle cassette. E il mio presidente ha la falce da morte, la faccia di Hannibal Lecter. Qui c'è chi ci comanda, amico mio, i mari e le vette, gli umani, cecchini e vedette, sicari, armi e paionette, a paionelle, vesti di Hannibal Rapper, carica il fet che perfect, tatticamente apri la mente, in città fatica niente. praticamente. La mia nazione muore sotto un dittatore in nome del suo canto, pure il santo protettore ha pianto tanto. Canta Napoli americano, della migliore tradizione come il professore De Vesuviano. Bravo, nato Bin Laden, invade Queen, Mother Martin Luther King, la Madonna piange qui, pare aiuto. Ramo BD, Bill Witt, Clementine, Artist, Evergreen, Travip e Bandit, Napoli, la police, Fasa, Yakis, Immortality, Peace from Italy. Hip, hip, hip, hip, hop. Napoli nel mondo. Hip, hip, hip, hip, hip, hop. Brooklyn. Danger. Hip, hip, hip, hip, hop. Brooklyn. Napoli nel mondo. Hip, hip, hip, hip, hop. Brooklyn. It's all good. Is this the new world order of a world gone mad? Killing machines, listen to murder rap. Burner smack, teeth out of your mouth. Down to the ground, sound of the pound. Round and around, you twisting up your mouth in a frown. Now these just a few thoughts from outside of the box. They wanna murder me cause I be talking about them a lot. One life, one love, one blood, one shot is all it takes to silence a man, but the thoughts live on. Assaulting the SWAT, standing over coke in your pot. Over the top, I'm like when suicide explodes on your block. Another day in the diary of a soldier's jihad. Every hollow tip an apostle and the throne is your god. They built the pyramids in Egypt just as Moses arrived. Opened the sky, smoked in the lie. They spoke to the most high, soaked in the most high. Hard to find, Jordan 5s, my sneaker game, slaughter guys. Dunk rappers is mortified when I rhyme. Immortalized nightmares like a wall of eyes. I taught your minds in ways that transcend the laws of time, the laws of physics, and the laws of modern propriety. Matter of fact, fuck the law, I'm at war with society. This is Ill Bill, homie, you know me, top of New York like Tony. I pop the cork on you lobsters and crab ponies. Wanna be fine, this is nothing but chachis. Go ask Joni, you don't know me. Peace to Clementine, Napoli Don. Video mind, Relief Records, you know we right on time. La Coca Nostra, in the place to be, it's the B-I-L-L-I-E, you know me, hip, baby. Hip, hip, hip, hop, Brooklyn. Napoli nel mondo. Hip, hip, hip, hip, hip, hop, Brooklyn. Danger. Hip, hip, hip, hip, hop, Brooklyn. Napoli nel mondo. Hip, hip, hip, hip, hip, hop, Brooklyn. It's all good. Madonna. Altri super scratch anche qua. E chi più ne ha più ne metta. Molto bene, abbiamo passato questa super traccia. Un super il Bill super. Stiamo morendo in diretta. Scusate, mi sono affogato, non so per quale motivo oltretutto. Succede, nessuno di noi è perfetto, Mars, non preoccuparti, e soprattutto io. Credevo. Vogliamo invece dire qual è cosa abbiamo scelto da mettere di accompagnamento a questo giro, alle nostre voci soavi? Ah sì, allora, quest'oggi il disco della casa il disco della casa è un beat tape di Crisis che si chiama Motherfunker. Capito? È geniale il titolo, è bellissimo. Motherfucker! È del 2016. Yeah, yeah, yeah. È del 2016. Perché abbiamo scelto Crisis del 2016? Così. Perché l'altra volta. Perché abbiamo... scegliamo solo belle cose, non ci, non sì, ci no, interessa. Perché l'altra volta sì, abbiamo scelto Alchemist, che era un beat tape della Madonna. Posso dirlo della Madonna in radio? Certo. Della Madonna. Ma per quanto mi riguarda. Vabbè. Solo che a dispetto della tracklist era un po' troppo scuro. Invece questo di Crisis, sentite, capito? È più tranquillo. Più tranquillo, più. Più classic. Cioè. No problem. Cioè, è un bel disco, dai. Ecco che siamo passati dall'altra parte del mondo. Non diciamo due non abbiamo detto nulla, non abbiamo detto nulla effettivamente, io allora, mi confondo, dovete perdonare il mio sfaso ormai. Il disco Iena di Clementino, uscito nel 2011, Iena che vuol dire io e nessun altro, perché sì, perché questo disco è una raccolta di pezzi che riguardano soltanto e solamente l'artista, quindi soltanto Clementino, più in generale la sua vita e queste cose qua. Perché Iena? Perché Iena è anche un suo nome d'arte scelto da se stesso, Iena White, tanto si fa chiamare anche lui, per indicare, come ha detto in un'intervista, l'analogia con l'animale che lasciava a terra la carcassa degli avversari. Molto macabra anche questa. No, uso la parola macabra in tutte le puntate. Non mi viene la parola giusta. Autocelebrativa? Ah beh. Ok, adesso possiamo andare dall'altro lato del mondo. Quindi adesso abbiamo il e Bill. Atterriamo direttamente nel nuovo mondo. Allora, adesso il Bill. Vai, annuncia il pezzo. Annuncio il pezzo, aspetta, vi sentite aspetta, il super aspetta. Pezzo. Devo mettere in scaletto. Dove sta? Perdiamo ecco anche qua. Il cervello piano piano, ci troverete morti per la strada, okay, prima o poi. Caricato il pezzo. Allora, ecco, c'è. Allora, il Bill, abbiamo The Three Wise Men feat. Oisi and Gerudadamja. Oisi e Gerudadamja. Gerudadamja, che è difficilissimo da pronunciare per quanto mi riguarda. Detto anche Gerudadamaja, sì, per chi non legge. Per chi non sa leggere come si scrive o scrivere come si legge. Passiamo questo pezzo? Passiamo dall'altra parte? No. E invece andiamo sì. Andiamo avanti, non mettiamo più niente. Chiudiamo la puntata chiacchierando per un'ora e mezza. Non vedete l'ora, vero? E invece no, e invece no. Okay. Il Bill. Non vado? Vado? E compagnia bella, andiamo. I never liked Amos, always thought he was a dickhead. The media wanna try to censor my lyrics instead. I'd be a fucking idiot if my lyrics didn't reflect the pain caused by our worldwide business of death. Blow job from your mother and wife at the same time. Sit back, recline with my cocaine rhymes. Heroin beats like extra cream. Let the rhythm hit him. Terrible heat, relentlessly, effortlessly kill him. Street villainous, be the children of man. Now get in the van, I get it cooking like meth in your pan. Tie your arm up with a belt and eject in a scab. Round trip to the drug spot, set in a cab. Rolling stone concert flicks. $1,000 tips, model chicks with retarded tits and hypnotic hips. Get sprayed at your table at the Babylon Club. Left days mangled, disabled, and splattered in blood. Me and Bill are both martyrs. Flow so similar to Harvard books inside libraries. One step beyond smarter. Cajun hot, we throw it up like a half-court lob. Ending the quarter on a shot clock, I does them. So sick of fuck around, become a victim. Don't blame me, young twats, put themselves in this position. I'm facing a dilemma. It's no telling when you might end up facing off with a nutcase in the center. Embrace this or perish. Faces show terror, this is uncut. No punches or edits, a rival of the devil. When I walk past, everything falls dead. Verbally spreading my medulla. Host door speech release. Stunt chain mechanics. Unexplained. I form a bar with the music. Join us. A permanent sleep is your appointment. Two guns mean I'm seeing ill. Bill a double joint. I'm a bomb alchemist. Hip hop scientist. Mix bombs in a lab. Like an Al Qaeda terrorist. My shit gnawed. Caught it from start to finish. Knock out so many teeth. I get kickbacks from dentists. I feed MCs to the vultures, man. While they chicks' asses up in the air like Shin Chan. Wanna test this? Have a good medical plan. Cause I bash you in a dome like Captain Cave. Man, and this dope's a billion bucks a gram. I wipe the blood off my mic and fuck a female fan. You never thought you'd see me, Bill and O on the track. So dope the DEA, thought it was crack. When it comes to rocking a mic, I do work. So many exotic feats, they call me Captain Kirk. In Nova with war, shit face like the jerk. My mic's a street sweeper, your shit just squirt. Un pezzo tanto fico quanto corto. Wow. Dico di nuovo wow. Avevamo il Bill feat. Ossi è Gerudadamja, che è un artista che insomma parla come mangia. Gerudadamja. Non troppe vocali diverse da come le interpreto. Consonanti. Quello che vuoi, insomma. Troppo. Vabbè. Di troppo, il troppo stroppia. Di Ossi ne avevamo già ampiamente parlato un paio di puntate fa, se non sbaglio nella puntata notturna. Sì. Ossi, il componente dei DTC. Gerudadamja, ecco, Gerudadamja ancora non ne abbiamo parlato. Ed è proprio per questo. È proprio per questo che abbiamo scelto il pezzo di Il Bill con Gerudadamja. Oltretutto pezzo che è presente neanche in un disco ufficiale di Il Bill, bensì in un disco mixtape slash raccolta che non si capisce bene che è, presentato come la Coca Nostra Presents Il Bill Black Metal, uscito nel 2007. Disco con un sacco di pezzoni, però noi abbiamo scelto questo perché? Perché ci serviva Gerudadamja. Perché e quindi, non potevamo fare a meno di lui. Certo, potevamo continuare con Slane, potevamo continuare con chiunque altro, però Gerudadamja ancora non abbiamo passato. E quindi adesso passiamo Gerudadamja. Passiamo un pezzo, tornando indietro nel tempo, di un disco uscito nel 1996. Questo è Gerudadamja insieme ad Afura. E Afura anche, non abbiamo ancora parlato di Afura, vero? Mi sa di no, mi sa che anche Afura, nonostante mi sembri strana la cosa, non l'avevamo ancora messo, davvero. Allora adesso vi passiamo un pezzo dal disco Wrath of the Mat di Gerudadamja. Il pezzo è Physical Stamina featuring Afura. E attenzione, Produzioni Marco Polo, quindi anche qui torna sempre a trovarci. Anche qui Marco Bruno. Marco, è vero, si chiama? Si chiama Marco, sì. Bruno, l'avevamo detto l'altra puntata. È giusto, sai, mi scordo ogni tanto, è giusto. E quindi tre nomoni in una sola traccia ed è un bel traccione, raga. Cioè, se, sentite soltanto come attacca. Senti, senti, senti. Yo, Ru. Yo, what's up? Yo, Ru. Yo, yo, come here, come here. Yo, let's freak that round we was freaking the other night. Vabbè, sì, questo è il beat. Cioè, mo attacca, attacca, attenzione, attenzione, attenzione. Paralysis, open your chest like a chalice. MCs couldn't strike movements, we wish to brandish. I'm tormenting, my stakes, lyrical warrior. I float through, fuck the mic, I fucking floor ya. Headlocks and arm locks, next is getting broken. No joking, format, I leave your whole aura smoking. Fist to five rings, I fling MCs to the gutter. Samurai sharp, more deadly than box cutters. Ultimate, as I emit your death blow. Perverted monks, and J-Root with the combo. Peter Piper picks peppers and run rock rhymes. But now we rock hymns, I got cheap blue mama. Radiance to physical extremities, indomitable. The spirit can't be broken, but jaws are broken. And even backs are broken. Think you're on point, but left your points of pressure open. Foot and fist, got your head hanging open. The breath rebirth, I damage in the mental and physical universe. You quake the earth when you hit face first. Break before it gets worse. But those that thirst for abuse get loose, cause soon I'll be around that neck tight like a noose. God show it proof. Then the juggernaut, electric like Magneto. No, you couldn't test mental or not the sequel. I slip to the floor for the grapple. I crack your collarbone while I crush your Adam's apple. Spleens get ripped out the backs of your rap. Broken down fractions as you start to make actions. It's too elusive how I'm quicker than Bruce's. Silver surfing, the universe is now as astrological. As I proceed in my vehicle, you can't stop it. Fiber optics, so you watch it. Sophistry, with so maturity, you can't get with me. Fight scenes are left bloody. Poisonous tail whisk. My thoughts make plate shift. Some may call this tectonic, but airways for miles are boiled by my sonics. It's ironic, got MCs hooked on phonics. So physical styles I construct like bionics. Place joints like Shaolin Chennai, furious roundhouses, cause bones to splinter. Protect your feet, legs, midsection and neck, cause I'm here to let you know it's not just on impact. We rats, and more than just figuratively, let it be known that we bringing it physically, and the effect is bodily. Harm, no chance to pull your firearm, for the body moves swift, and the mind stay calm, wait shift, like the moment before the storm. Watch my form, it's deadly, come too close, it could get bloody and ugly. You think that you could stop me, perverted monk, so now we apply pressure. This salmonist style is iller than its predecessor, Taoist professor, mix up the elixir, internal power, MCs we devour. Ve lo siete goduto questo furà? Au furà. Au furà. Insieme a... il nome di Afura, è divertente. Molto divertente. Allora, abbiamo passato questo meraviglioso Rate of the Math, che è questo disco del 96, di cui ne viene realizzata anche una versione clean, ovvero censurata. Sì, in America funziona molto questa cosa. Il nostro Gero si arrabbia molto per questa, per questa realizzazione, ha molto da dire e ce lo dimostra tutto, ecco. Sì, sì, Gero era sempre arrabbiato, tant'è vero che... che si sente? No, a parte che si sente, ci sono stati un sacco di dissing di Geru in giro, cioè ha dissato un sacco di gente. In questo disco soprattutto se la prende con la Death Row Records e la Bad Boy Entertainment. Insomma, se lo incrociate per strada testa bassa. Sì, perché la Bad Boy era di Puff Daddy, la casa discografica di Puff Daddy. Invece la Death Row era la casa discografica fondata da Dr. Dre, se non ricordo, Dr. Dre. Vabbè, da lui. Il nostro Gero sempre affiancato da Premiere nel nuovo lavoro, che si presenta meno duro sonoramente, di impronta spirituale ma ossessivamente polemica. E ci tengo a sottolineare, voglio dire una cosa. Sì, sì, sì. Dopo questo disco ha dissato anche Premiere, perché ha litigato con Premiere Guru e quindi... Cioè, capito? Cioè, ma capito? Ma con chi stiamo parlando? Ma con che animale della scena stiamo parlando? Veramente. Ehi tu! Come potevamo stare senza passare un pezzo di Jarud da Damjak? Dai, un giorno imparerò anche tu a pronunciare. Sì, un giorno imparerò a dire questa cosa. Sempre letto, mai detto. Allora, quindi il featuring era con un altro artista di grandissimo e altissimo livello, ovvero Fura. Afura. E quindi adesso passiamo un pezzo. E adesso passiamo un pezzo dello stesso Afura. Che pezzo è? Il pezzo si chiama Life Force Ray. No, sì, quello è il disco, scusate. Il pezzo si chiama... Come si chiama? Dai, dai. Come si chiama? Dai. Vabbè, dimmelo come è scritto, dai. Su. Ah, il pezzo si scrive BLVD. Ok. Dovrebbe essere Boulevard. E tipo il codice fiscale. Queste continue pretese di Marzo della mia pronuncia dello slang americano. Ma dai, ma è Boulevard, sarà... non è slang, è una parola inglese. Sì, ho capito. Forse vuol dire qualcos'altro e non lo sappiamo. Pronunciala te che la sai pronunciare Boulevard. Bene, questi litigi casalinghi in radio. Adesso ti spacco la bottiglia in testa. E il featuring di questo pezzo, ecco, è un altro signor featuring. Questa è una cosa da dire. Questo è un signor featuring. Con chi è questo pezzo? Dillo. Questo è molto semplice. Questo è Guru. Questo, anche se probabilmente si dice Guru. Guru. Guru. No, no, no. O Garo. Questo è Gifted Unlimited Rhymes Universal, questo è Guru. Questo è un meraviglioso pezzo del 2002 dell'album che già vi ho annunciato prima per errore e chiedo venia, Life Force Radio. Ed è un pezzone, ragazzi. Ed è un pezzone e quindi abbiamo deciso di farvelo sentire in radio oggi, Radio Wombat, soltanto bella musica. E sessioni notturne soltanto e bella musica. E sessioni notturne anche. Soltanto bella musica. Soltanto bella musica. Vado in play? Andiamo in play. Il progetto va in porto? Attivo? La accendiamo? Allora lo infilo. Vado? Okay. Vado. I'm coming through. The voice you can't ignore. It's our fool. Hey yo, this is Gifted Unlimited. Peace, our fool. You know we've been building for years, man. Show these fools how it's supposed to be done, baby. I spent time learning to kill. That's right, I'm stretching out with my tentacles. When I nourish my skills, the illest with that other shit. Perverted with this, come and step aside the mothership. I got the codes and manuals and microchip to flip the script. Parallel to my thoughts, trying to get. I keep it cooked up, but not the great white hope. Ayo, primo, should I hit him with the rope or dope? Seashells, seashells by the seashore. But now I'm slap clapping and rapping and tap your jaw. Summertime, ladies at the bus stop. When I roll without the drop, they yelling shimmy, shimmy, cocoa pop. Ill with the slurs, what? And I'm thick like yogurt. Quick to bust a fast word. I know you like what you think, what you like. But I stick out on a track and blind your third eyesight. Why do you think that we should settle for less? Now take a deep breath, no time to get rest. When cats is testing your vest, yeah, you know who we are. Our food to the gang, to the star. We got props on every boulevard. I do it like this and that. Straight knowledge dripping right out my hat. Like sex and candle wax. As a matter of fact, I take it back in the days. If you're whack, in fact, you get the Bozak. And the chickens, and thinking they finger licking. Trying to get the party kicking, but really they should be stinking. Crack the asphalt by doing lyrical somersaults. Slang slay a headbanger boogie. I got a think tank that's lighting up with a blink. Smooth and sway, but I'm compared to mint. Some cats said forget the spiritual and mental. Straight up, yo, I slap him with a miracle. Expressing everything, including the kitchen sink. Building on topics from aluminum to zinc. So while you fix your kinks, I do triple axles, getting your bath around the ring. Why do you think that we should settle for less? Now take a deep breath, no time to get rest. When cats is testing your vest, then you know who we are. Our food to the gang, to the star. We got props on every boulevard. Why do you think that we should settle for less? Now take a deep breath, no time to get rest. When cats is testing your vest, then you know who we are. Our food to the gang, to the star. We got props on every boulevard. When I spark it up and you ingest my skills, I'm hanging down like I'm testicles. Romancing like cancer, one step's in a dancer. Got a pop quiz, yo, I help you with the answers. A master marvel, scribble the illest novel. 80 more albums, I got more pages than the Bible. Level out my energy through Leviticus. As I rebirth, my soul glowing Genesis. Eyes peering through the fog, shout out my brothers and sisters. who study the Quran. From a path in hip-hop, shalom in a synagogue, then a China mushroom song. As the night prolongs, that means I'm about to put it on. So abrasive and persuasive, plugs pulled out of my set, stop pacemakers. Peace, computer wizards, graph writers and breakers. Why do you think that we should settle for less? Now take a deep breath, no time to get rest. When Cass is testing your vest, then you know who we are. Our food to the gang, to the star, we got props on every boulevard. Why do you think that we should settle for less? Now take a deep breath, no time to get rest. When Cass is testing your vest, then you know who we are. Our food to the gang, to the star, we got props on every boulevard. I'm coming through. I'm golden aura. It backs the voice, you can't ignore. I'm coming through. Is that fool? You know who? I'm coming faster. No, ma non si sentiva che il beat era di Premiere, eh? Non si sentiva per niente. Di chi sarebbe potuto essere? Un beat del genere? Forse di Premiere. No, secondo me non si sente di Premiere. Ma cosa dici? Ma ti sembra veramente un beat di Premiere? Dai, insomma, qua continua a parlare. Ma queste segreterie telefoniche alla fine dei pezzi americani, non ancora capirle, guarda. Questo era Afurà con Boulevard, con Guru in Life Force Radio nell'anno 2002, quindi parliamo di 17 anni fa. Quanto vecchiume. Mamma mia. Me ne vado, adesso vado a casa a dormire, è l'ora di andare a nanna, signori. Questo disco, il secondo disco ufficiale di Afurà, uscito dalla Gangstar Foundation, allontanatosi da Jero D'Ademisia, anche lui, cioè, probabilmente avranno litigato anche loro, non lo so. Ha cominciato ha iniziato a collaborare con artistoni come Gisa, i Coco Abrovaz, Big Daddy Kane. Con gli M.O.P. aveva già collaborato prima, se ricordo male, però non mi ricordo, quindi non lo dico. E basta, cioè adesso come di consuetudine per questa puntata andiamo a parlare di Gifted Unlimited Rhyme Universal, che è Guru. Guru, che ricordiamo che esattamente venerdì 19 saranno passati 9 anni dalla sua morte. È finita anche la musica. Esattamente 9 anni fa. Sulla triste notizia. Sì, ci ha lasciato Guru per un cancro, anche lui come primo. Quindi abbiamo scelto un bellissimo pezzo per ricordare questo artista, questo rapper. Un pezzo, non il classico pezzo preso dai dischi dei Gangstar, ma abbiamo preso un pezzo da uno dei suoi progetti solisti, che è Jazz Matas, il volume 3, attenzione. Jazz Matas, che è stato un progettone di Guru, dove univa il jazz all'hip hop, uno dei primi dischi dove veniva usato il jazz insieme al rap proprio. E il featuring di questo pezzo è un featuring molto particolare. È un gruppone che sicuramente avete sentito, sicuramente ne avete sentito parlare, perché loro sono i The Roots. Sì. E sono veramente un... ma ne parliamo dopo dei The Roots, intanto ve li sentite. Vabbè, se vuoi di qualcosa, no. No, ce li teniamo per dopo, intanto sentiteveli, se non li avete mai sentiti è il momento giusto per cominciare a sentirli. Ma li avete sentiti, ci fidiamo ciecamente di voi. Questo è Lift Your Fist di Guru featuring The Roots, direttamente da Jazz Matas volume 3. 2000, andiamo ancora 2000. più indietro negli anni. Sì, siamo fermi. Andiamo a 19 anni fa. Madonna, non lo dico così, con tutta questa leggerezza, mi sento vecchio. Vado? Prego. Grazie. Yeah. Guru. The Roots. Yeah. Come on, y'all. Lift your fist. Yeah, lift your fist, come on. To all my people, just lift your fist. Seem like it ain't no peace, no justice. How you want it? The bullet or the micro shit? Either way, you got to lift your fist. We get it down like this. To all my people, ball up your fist. Seem like it ain't no peace, no justice. How you want it? The bullet or the micro shit? Either way, you got to lift your fist. list. Yeah, we living life close to the edge, don't push. But this ain't 83 and it's not the cold crush. It's kids on the street strapped, puffin' that cush. They eyeing the next cat, living all plush. I guess frustration make a brother do what he must. What's the combination that can make it human erupt? Team leaders getting mutinied up, who couldn't read the signs, sticking the day and times is tie. Indeed, we blast, refuse to kiss ass, quick, fast, ready to mash cause of a bugged out past. Swallow the pain, follow the mental terrain. It takes a hell of a man nowadays to maintain. Garments bloodstained, face bruised and battered. Eyes reflect agony of dreams that were shattered. And they love it when we wild out and kill our home. But the greater responsibility, yes, is still our home. So all my people just lift your fist. Seem like it ain't no peace, no justice. How you want it? The bullet or the microchip? Either way, you got to lift your fist. We get it down like this. You want my people ball up your fist. Seem like it ain't no peace, no justice. How you want it? The bullet or the microchip? Either way, you got to lift your fist. Worldwide famine. Ghetto people demanding that somebody do something soon. And let's examine the facts behind the violent attacks, behind the daily gunplay, the cocaine and the crack. Thug season. What's the reason for the treason? Everybody's gotta eat. Some gotta resort to thieving. Take money, money, make money, money, money. So all my people just lift your fist. Seem like it ain't no peace, no justice. How you want it? The bullet or the microchip? Either way, you got to lift your fist. We get it down like this. So all my people's ball up your fist. Seem like it ain't no peace, no justice. How you want it? The bullet or the microchip? Either way, you got to lift your fist. Yeah. From the time they eyes open till the clock strikes death, brothers distressed. Walk around holding their chest. Got the government surveying their steps and can't breathe. They dynamite in projects to smithereens. Money coming, but the days too few and far between. You trying to taste just what the world's offering. Y'all mean? I seen enough to make a grown man scream. Brothers thirsty and hungry to get that thing. Too many tears of pain, too many years of struggle, too many drops of blood, too many problems to juggle. Too few jobs available, too few schools equipped, too few role models. Just gangsters and pimps. Will you succumb? Will your heart grown up? Or will you save the world and use your mind like a gun? I'm the one. I turn a stick up kid to a soldier. Me and the roots, word up, we taking over. Two of my people just lift your fist. Seem like it ain't no peace, no justice. How you want it? From the bullet or the microchip? Either way, you got to lift your fist. We get it down like this. All my people just ball your fist. Word up, it ain't no peace, no justice. How you want it? The bullet or the microchip? So all my people just lift your fist. How you want it? It's no peace, no justice. From the bullet or even from the microchip. Either way, you got to lift your fist. We get it down like this. For real, lift your fist. Come on, my people, y'all. It ain't no justice. Kick it. Quanto è fresco sto pezzo. Questi The Roots meravigliosi in questo terzo disco solista di Guru. Questo Guru meraviglioso. Meraviglioso. Con questo featuring The Roots. Fra l'altro, sì, sì, sì. Tutto, tutto molto bello, tutto meraviglioso. Ragazzi, che bella musica. Che bella musica. Ma se non ci fossimo noi a passarvi questi meravigliosi pezzi, come ve li sentireste da soli, dicono? Lo spero. Una serie di artisti sono stati protagonisti di questa registrazione. E la maggior parte degli artisti sono sostenitori della scena neo soul and R&B. E le apparizioni sono state fatte da diversi artisti contemporanei, tra cui Amel Rieux, non so bene come si pronunci, però non, il francese non lo so, esatto, il francese purtroppo. Angie Stone, Bilal, Craig David. E Erika Badu, i The Roots, appunto, è tutta bella gente. Herbie Hancock che è Isaac Hayes. Cosa c'è? Che cosa ho sbagliato? Isaac. Lo so, io purtroppo c'ho questo problema. Almeno se sentite parlare me sapete come scriverlo. Io per quello lo dico, va bene. Isaac Hayes. Hayes. Come si scrive Erika Badu? Vuoi fare lo spelling? Io avrei detto Erika Badu. Erico. Erico. Jericho Badu. Insomma, speriamo che voi abbiate apprezzato i nostri The Roots. Che hanno anche... Prendi fianna. No, scusate. Tra l'altro sto... Tranquillo. Tu chiedere scusa oggi. Non ci posso credere. Vabbè, allora andiamo avanti e prendiamo i nostri The Roots e li facciamo noi fattori del prossimo pezzo. Il prossimo pezzo è, che è, il titolo è Rolling with Hat. Insieme a? Talib. o dillo te. Talib Kweli. Oh, Talib Kweli. Ho detto anche Talib Kweli. Sì. Dell'album Phrenology del 2002, quindi ritorniamo nel nostro 2002, che era quello che ci accompagnava prima. E quindi vi facciamo sentire un altro pezzo di The Roots che vale la pena, perché valgono la pena tutti. Se vi passeremo altri pezzi loro, dei loro dischi, perché sono veramente tanta roba, e anche Talib Kweli. Vado? Sì, andiamo in play e meno parole, ciao. Più musica. On your fantasy island, the umbrella in the tropical drink, stirring it up, liquor in the cup, fucking you up, hang over the banister, you feel the rush of the blood going straight to the brain, ain't no love, you only love, bring your hate to the game, taking my name and fame, mistaken life for freedom, he made music for the people, people dying to meet him, people, we still love you, for all the richest man of music, he probably driving the Buick, and be driving band, using this to G-U-E, relevant, see how this man do it, fuck with niggas like elephants, see how we ran through it, the river in the valley, a nigga in the alley, rolling with that heat, from BK to Killer Cali, the hands are fake clapping. You be collapsing, you swore to the land of legs, transforming the landscape like a sandstorm in the Sahara. I am the truest, nigga. I do my shows with the roots of Cabin Lewis, the creative artist. Never played a target. The game hunters you may want to test. This product of game smugglers, this disco shit. Popping like Crisco, hitting your face, spitting your face like a pistol shit. My style wild like whip a whip. I go back like a pistol grip. Pro black quality. I'm a threat like alcohol, tobacco and firearms. Willie gang spit the killer gang dialogue. Pyromaniac like Dr. Molotov, to knock the bottle off and knock the model off. Got some non-believers, man. Somehow I save y'all all. Stop your weather, yeah, you're making me vex. Hit up Gecko, this ain't got gold direct. I'm fucking Donnie, hunt your body like I'm gold effect. Cause you just saw you not a soldier yet. You better hold your neck. Got dick smokers get no respect. With the blood, ice your watch, rock your rocks. Better rock it on the screen, not the blocks. Cause them dudes won't stop them shots. And so many a fly, the case gotta just stop and watch. I'm from the south side of Philly. It's known to get gruesome. Heavy-headed villains, these alleyways produce them. Heavy on a pocket, we find a way to juice them. You may as well pay, schmuck. Introducing the beat of L.A. See me, it can't splitter. Then analyze your style, the main thing glitter. Then analyze your taste in your mouth. It seems bitter, gangster, valedictorian. Graduate of our game, you. If y'all paper thin, I'ma tell you. I'ma come take care of you, put a part in your head. You walking like I'm starting to scare you, but speak up like a man, nigga, so your bodyguards can hear you. Of the hour, we're about to prepare you for another 2 hours of music-free commercials. Yeah. Ladies and gentlemen, speriamo che questo pezzo vi sia piaciuto. Da mettere con bel po' funky pop quasi. Sì, sfiora. The Roots, credo. Sì, The Roots. Abbiamo tali e quali che comunque è un bravo rapper. C'è anche Black Dog di The Roots, ricordiamolo. Questo Beh, scusate, oggi oggi morti su morti. Questo era Rolling With That da Phrenology nel 2002. Phrenology è il sesto album dei The Roots, pubblicato nel 2002 a novembre. E sicuramente l'avrete sentito, perché quest'album è diventato famoso soprattutto per il singolone che ne è stato estratto da dentro, singolone che continua tutt'oggi a girare in tante occasioni, che è The Seed 2.0, il pezzo cocco di Chestnut, quello classico ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten. Ten, ten, ten, ten, ten. Ora sì che sappiamo di che cosa stai parlando. Non potete, non è che non so bravissima imità, però dai, cioè, avete capito, no? Cioè, Ora, prendendo tali e quali, ci avviamo verso il penultimo pezzo di questa finito. Fra un po' vi lasciamo in pace. Puntata, sì, fra un pochino vi lasciamo alle vostre, ai vostri affari e ai vostri da farsi. Ora, no, non diciamo proprio un pezzo. Ok, no, non diciamo il featuring. Questo è Tali Quelli, featuring. Abbiamo Tali Quelli, abbiamo preso featuring un altro diciamo la No, niente. Non diciamo niente, non diciamo niente. Il pezzo prezzo si chiama Palucas ed è prodotto da Marco. Aspetta, questo è prodotto da Marco Polo. Ma è sempre fra le No, aspetta, no, però aspetta, no, prima mi sa che ho detto una cacata. Il pezzo di Geruda Dimja e tutti possono sbagliare, possiamo sbagliare anche noi. Mi ricordavo che era prodotto da Marco Polo, invece era questo. No, vabbè, raga, mo cerco e ve lo dico quando finisce la prossima puntata. No, lo dico, lo sappiamo subito, ci correggiamo. Esatto, sì. Vabbè, comunque, nel frattempo mettiamo sto pezzo di Tali Quelli. Provate a indovinare qual è il featuring di questo brano. Non è difficile, non è assolutamente difficile capirlo. Vado. Oh, you can try. Oh, you can certainly try. Hey, murder. Yes. But what we do, classic. What we do, classic version. We represent, yeah. My music represent the change of power. From now on, this thing is ours. Gotta paint and war instead of paying flowers. We shower the heroes with praises while we hanging hours. Bring the drums to the battle, cause we bang the loudest. You don't know a thing about it. If you mix the King of Malcolm, bet you that quality the album. Album so hot that my ghetto chicks is bringing talcum. Whether you sing or shout it, they gave somebody else the crown, but I'm the king without it. Your queen is riding with me, she always sliding with me. You can't stop me like the bullets that's inside of 50. They try to diss me, but whenever I see body miss me. You walking with me or you alien like walking men. You talking with me if the orphan, if you take it off the table. When the devil run the label, cause the Lord is with me. Arrogance bring the fool of many. My name echo like the hall is empty. You don't want a war against me. Hey, hey, this is the cut, I'm the surgeon. Assassinate your character, cast aspersions. You ain't got a verse better than my worst one. You ain't got a verse better than my worst one. Hey, I know it hurts, son, but you against me. A 50 cal versus squirt gun. You ain't got a verse better than my worst one. You ain't got a verse better than my worst one. Why? You and your man's a Lucas, you scare my Methuselah. You see beyond a shadow of a doubt, I'm born ready. Steady as the hand of the shooter. In the flesh, yes, the embodiment of man versus computer. I make all the women abandon their suitors. Do the math, you see you can't measure up to the ruler. Word, on behalf of all the fans and consumers, I'm building with Fred Hampton Jr., man, we planning the future. Not preaching, we do it different, we lifting the youth up. We spitting it too tough, too sick for these new thugs. Goons, whatever they call, they softer than new bug. Vampires in the club. Sipping that true blood, I'm a midnight marauder and a slaughter for the tribe. Immortal arm, busting at the cops like Mordecai. The sort of guy to mortify these clown ass rappers since fortified live. And you know it, man. Hey, hey, this the cut, I'm the surgeon. Assassinate your character, cast aspersions. You ain't got a verse better than my worst one. You ain't got a verse better than my worst one. Hey, I know it hurts, son, but you against me. A 50 cal versus squirt gun. You ain't got a verse better than my worst one. You ain't got a verse better than my worst one. Yo, Sean Price, Mad Nights, accept that. My worst verse sound like your best rap. Put down your bent black. I pay double on trips, I punch you up in your face and double your lips. Blue. This be the dumbest shit I ever wrote. No Tupac Shakur, just two shots your floor. Listen, the gun clapper, the dumb rapper, the young rapper. Dig in your pocket and leave with your funds faster. Fucking new rap rookies get beat to death. New Jack Pookie. Face fucked with the H stuck in the grill. Play tough and get scraped up in the veil. Afro American, minus the afro. Bone-headed American, letting the gas blow. Shut the fuck up before you get hurt, son. You ain't got a verse better than my worst one. Hey, this the cat, I'm the surgeon. Assassinate your character, cast aspersions. You ain't got a verse better than my worst one. You ain't got a verse better than my worst one. Worst one. Hey, I know it hurts, son, but you against me, a 50 cal versus squirt gun. You ain't got a verse better than my worst one. You ain't got a verse better than my worst one. Avete capito chi era il Futuring? Di chi era questa vocione? L'avete capito? Indovinate chi era? Di chi era? Devo dire davvero? Bene, sì. Avevamo Sean Price. Era il Mago Forest. Il Mago Forest. Sean Price era l'ultimo scalino di questa meravigliosa Stairway to Heaven che abbiamo fatto oggi. Fra fit su fit, bella, con fit, questo... vero? Una bellissima immagine, una bellissima immagine. Volevamo intanto chiedervi scusa per un errore che abbiamo fatto inizialmente. Sì, sì, scusate. Allora, praticamente abbiamo detto una cosa erronea. Il pezzo di Geruda Demja con Afura era prodotto da Premiere. Io non so perché, avevo proprio, sai quando tipo leggi una cosa, poi ne visiti un'altra, avevo scritto qualcosa, ho preso appunti a scaletta, convinto che era Marco Polo ad aver prodotto quel pezzo, invece avevo detto una cacata. Invece Marco Polo era qua, e là c'era, cioè, venuto a trovare. E poi in effetti, cioè, dopo quel disco ha fatto storico Premiere, poi Marco Polo, sì, infatti, nel 96, mi sa che... Questo disco è del 2011, quindi sì, effettivamente abbiamo sbagliato, fa parte del bello della diretta e sarete molto... tristi o contenti di questa cosa, insomma, l'importante è che abbiate delle emozioni. Okay, ok, ok, perfetto. Allora, diteci come sentite le nostre voci comunque, perché effettivamente noi non, mentre le registriamo non è che proprio capiamo bene. Allora, di qualcosa Get the Rainbows, Rainbows. È il quarto album in studio dell'artista americano, abbiamo detto, Talib Kweli. L'album è stato rilasciato il 25 gennaio 2011 ed era originariamente destinato ad essere rilasciato solo in un formato digitale. Ma ma niente, la ma niente, invece è uscito. Sì, sì, sì. Duckdown alla fine voleva far stampare il disco, lo voleva a CD e quindi poi è uscito sia il CD che il vinile in realtà, quindi è a posto. C'era fuorviante la data. Molto bene, molto bene. Quindi siamo arrivati all'ultimo tassello di questa serie di artisti, che è proprio Sean P, che è uno, lo so, l'avrete capito, uno dei nostri preferiti. Lo mettiamo sempre soltanto in grandi occasioni e in grandi posizioni, e grandi e belle posizioni. La faccia di Marzo dopo aver detto questa cosa è stata qualcosa di agghiacciante. Era un po' fuorviante. Allora... Lascio quindi a lui l'annuncio del prossimo brano, nonché ultimo brano, vista la faccia con cui mi guarda mentre parlo. No, ma non è vero. No, non è vero, io scherzo, mi piace farvi immaginare cose strane. Sì, infatti, sai che se succederà qualcosa un giorno daranno tutti la colpa a me. Allora, adesso mettiamo Peabody. Con Rock, The Rockness, degli Alta Scherta, sempre con lui, sempre insieme, da Jesus Price, Superstar. Che avevamo un disco di cui avevamo parlato anche l'altra volta. Un titolo bellissimo. Un titolo bellissimo. Disco uscito nel 2007, secondo album in studio di Sean P. Disco dove c'erano produzioni di 90 Wonder, di Crisis, di Ill Mind, PF Cutting, e i featuring erano i soliti: Ras Jax, Sadat X, Block McCloud, la Bootcamp, è tutto bello. Questo mondo è bellissimo. Niente. È proprio su questo pezzo qua che vi salutiamo, essendo l'ultimo brano di questa meravigliosa crociera. Crociera in mezzo a artisti su artisti. Crociera passata. Dove siamo? Aspetta, dove siamo? Siamo vicino alle coste del... In Grecia. A me piacerebbe molto andare a fare una bella crociera. Una crogrecia. Ed è proprio sulle note vocali di Sean P che vi salutiamo. E speriamo che anche questo format vi sia piaciuto. Questi featuring, tutte queste belle persone, belle voci, bei testi, belle emozioni. Un abbraccio molto caloroso da Vintro e ci sentiamo giovedì prossimo. Godetevi quest'ultimo pezzo. Sì, però scusa, tu fai saluti, devo fargli da parte di entrambi, di che mandi un abbraccio anche da parte. Ah, vabbè, mando un abbraccio anche da parte di Marzio. Non so se magari hai qualcosa di molto privato e intimo da dire al tuo pubblico. Sì, ragazzi. Ci vediamo questa sera alle 19 sotto casa mia. Tan tan tan. Non mancate. Molto bene, vi salutiamo. Dopo questa gaffe, vi salutiamo e ci sentiamo giovedì prossimo, non mancate, tutti presenti, sessioni notturne Radio Wombat. Ciao ciao. Ciao ciao. P. You rolled up. Sean P. Body. Oh shit, I mean, this is me. Big Pope. Introducing the rap. You. JL. Oh, this is me. Body. Nice one. Hey yo, the arm, leg of arm. Head Megatron, Decepticon, Sean Duke, you know my name. Fuck around and send your ass back from where you came. Back in the dirt, back in the earth, back off my turf. Clap cowards, black power, black, red, green and shit. Smoke sour, so powder, cause crackheads be needing shit. I'm in the hotel with ganja. Dope needles, Don Cheadle, Hotel Rwanda. Go get your partner, rocking head nigga. Go get your mama, my cock right here. I got this here, it's a different doctrine here. Fuck if the cops are where you get popped in here. Listen, I fear no man but God. Matter of fact, Duke, I am the God. Peabody. Four eyes, two arms, and three shotties. Got shit on lock like Irv and Gene Gotti. A mean mommy from Puerto Rico who sell Pedico. And for the right price, princes to pop at your people, Peabody. Don't say, I mean, this is me. Pound for pound perfection to punch potholes and pretenders. Pay attention, it's gon' pop off. Body to beat, body to street. Anybody get body when it's beat. Introducing supposed to lie to the cops, tell the truth in the booth. And said you tell the truth to the cops and lie in the booth. Fucking back with ass rappers to smack with the gap happily. Boom, shack, shack, the gather back up the faculty. Yo, the left hook to shatter your chin. Similar to Dow Dawkins when he shattered the rim. Niggas get mad at my Tim's, $1,000. Jeans on, yeah. Boot camp, bitch. Recognize my team strong. Nigga, kneel down, kiss the ring. R. Kelly, your verse when I piss on your 16. Nigga, rap prime minister, Paul President P. Pop up my pistol, partially parched past the T. Truth be told, God top ranking. I'm not thinking, singing whatever. Love it when I put it together. Listen, y'all bitch niggas probably punani. I bust a shot and start running for mommy. Peabody, pound for pound perfection to punch potholes and pretenders. Pay attention, it's gon' pop off. Body to beat, the body to street. Anybody get body when it's beat. Introducing Peabody, partner. He practically pioneered this position. You punk pop shit, he popping the heaters. You gon' see a body. Somebody gon' be a body. Somebody gon' probably need a body transplant. Peabody. Listen, this is the BCC and Double D in the 2K6. We make hits, we make chips. I'm always stacking my dough. Can't be the brokest rapper, you know. Peabody. Yeah, get money or get lost, or get your shit split when licking the fifth off. This ain't no gangster rap. How many motherfucking gangsters rap? Listen, I mean, truthfully, you might think you that, but overall, Duke, I think you whack. Peabody, the name is new, the face the same. The judge is whack, the case is lame. I love the rap, but I hate the game. Matter of fact, bitch, what's my name? Peabody, Peabody, Peabody, Peabody, Peabody.